Quanta fretta, ma come investi? Cosa fai? Se li ascolti per un momento capirai. Lui è il Meazza, lei la Rosciani, sono i due di denari, di loro ti puoi fidar. Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Andava a 100 all'ora per cantare la serenata. Blem, blem, blem, blem, blem, blem, blem, blem. E non vedevo l'ora di baciare la bocca sua. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ecco, ecco, buongiorno Deborah, buongiorno, tutto bene? Sì. Tutto bene, grazie. Aspettavo proprio questo verso della canzone Andavo a 100 all'ora del Gianni Morandi Nazionale, perché era anche c'era questo signore che non vedeva l'ora di baciare la bocca, ma non della sua legittima consorte, bensì della sua amante. E sono tempi duri per i fedifraghi, cara Deborah. Perché vabbè, ma cosa è successo? Non è che tu stia proprio raccontando qualcosa di nuovo. Quale sarebbe la novità di tutto questo? Allora, questo signore, il fedifrago, non facciamo nomi, manteniamo anche un certo riservo anche sulla località dove tutto ciò si è svolto. Questo, il fedifrago si è recato, violando la quarantena perché era positivo al Covid, la quarantena si è recato dalla sua amante. Mal gliene incolse. Sarà stata contenta lei, no, che nonostante tutto lui, no? No, non ha affatto apprezzato. Anzi, conoscendo le condizioni di salute, cioè il suo stato di positività, non gli ha aperto la porta e ha chiamato i carabinieri. E così lui, ecco, è stato pizzicato in flagranza di reato. La questione a questo punto diventa seria ed esce dal boccaccesco, per dir così, perché a questo punto qui si tratta di un comportamento che è anche passibile di sanzioni penali, come ci spiegherà il nostro esperto di valore mondiale nella seconda parte della trasmissione, perché oggi proprio di quello parleremo. Però, esatto, vorrei anche segnalare come è finita la questione, a prescindere dalla sanzione che gli verrà, lo so che tu, in partita comminata. Giustamente, esatto. Cosa hanno fatto i militari? E lo hanno riaccompagnato a casa dove lui doveva stare, dove c'è la sua legittima consorte, che immagino avrà avuto agio di punirlo adeguatamente. Così lui non che solo... bella quarantena che passeranno insieme. Infatti, non solo è stato, per così dire, scaricato dall'amante, grazie peraltro alle forze dell'ordine, ma anche gli tocca passare adesso la quarantena con la moglie, che a questo punto immagino sappia molto bene della tresca del marito. E vabbè, insomma, è un aspetto così un po' più leggero, se volete. Il tema invece è ovviamente serissimo, come vi ho detto, ne parleremo. Spostamenti consentiti, non consentiti, che si rischia, zone rosse, gialle, arancioni, insomma, stiamo tutti un po' interrogandoci sulla legittimità o meno dei nostri comportamenti. Ci sono già, devi sapere Deborah, delle persone che si sono prenotate per intervenire o per chiedere. I numeri sono i soliti: 800 24 0024, il numero verde per gli sms e i whatsapp, usate 349 238 6666. Ma prima di tutto questo, cara Deborah, prego, il giornale radio del risparmio. Ecco, e adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. And we're down, we go. Abbiamo ancora un record, Mauro, di denaro detenuto da parte degli italiani sui conti correnti. Ieri avevamo già riportato ai nostri ascoltatori dell'inchiesta fatta dal Sole 24 Ore su base territoriale, l'inchiesta appunto delle colleghe Michela Finizio e Marta Casadei, se non mi ricordo male, ci aveva proprio raccontato la distribuzione geografica di questo denaro detenuto appunto in forme di liquidità sui conti correnti. Oggi abbiamo un ulteriore dato, perché proprio ieri è stato diffuso il bollettino mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e per quello che riguarda appunto il mese di ottobre si sarebbe registrato un nuovo record, 32 miliardi in più nel giro di 30 giorni appunto sui depositi italiani. Lo racconta oggi sul Sole 24 Ore Laura Serafini, naturalmente riportando anche dei commenti rispetto a questa tendenza. Anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha detto: il risparmio di per sé è positivo, le banche devono poter contare su esso per finanziare famiglie ed imprese, ma è anche vero che i depositi devono essere mobilizzati e quindi vanno create le condizioni per poter avere maggiori investimenti e quindi un miglioramento della crescita economica. Il punto è che bisognerebbe analizzare un po' meglio, Mauro, secondo me, ma magari ne faremo appositamente una puntata dei Due di Denari. Le ragioni per cui questi stock crescono è che si sono fermati certamente i consumi, e poi c'è anche da dire che molti italiani hanno chiesto una sospensione di mutui, dei versamenti di contributi, di tasse, quindi probabilmente questa liquidità si è generata anche per tener lì del denaro fermo pronto ad essere usato se l'emergenza dovesse continuare. Quindi non è esattamente tutto frutto del risparmio, come dire, proprio della voce risparmio. E infatti sembra più un risparmio indotto, anche perché dall'altro lato, nel primo semestre dell'anno comunque avevamo già registrato una crescita dei mutui, il mercato dei mutui risulta in crescita anche, cioè anche nel secondo trimestre, quindi rispetto al medesimo periodo del 2019 abbiamo avuto un primo semestre 2020 che, come tutti sappiamo bene, è stato funestato dal lockdown, da quello proprio pesante totale. Abbiamo avuto però un mercato per quanto riguarda i mutui in crescita particolarmente positivo. Ha inciso sicuramente, lo abbiamo detto più volte qui a Due di Denari, il livello degli indici, gli indici che sono rimasti con valori prossimi allo zero. Insomma, pare che non ci sia stato davvero un momento migliore, se non in questi ultimi mesi, per accendere un mutuo. Chissà perché poi Deborah si dice accendere il mutuo. Ma lo sai che ci sono tanti modi di dire che ci incuriosiscono? Anzi, facciamo una cosa, Mauro, perché non lanciamo questa idea tra i nostri ascoltatori, che ci segnalino le forme, i modi di dire legati alla finanza più curiosi che loro non comprendono, e noi magari potremmo fare un piccolo vademecum con tutte le spiegazioni. Accendere il mutuo, poi quali erano gli altri che ci incuriosivano? Ma a me mi incuriosisce sempre quello assicurativo del pagare un premio, che di solito un premio, esatto, uno sì, lo riceve e non lo paga, lo però riceve. Comunque tutto questo che ti ho raccontato viene da La Bussola Mutui, il bollettino trimestrale di CRIF, e da mutuisupermarket.it. Dopo il forte rallentamento appunto del lockdown, però nei mesi successivi c'è stato un percorso di ripresa molto molto robusto, e quindi questo ha riportato appunto in crescita il mercato dei mutui. Abbiamo un'ultima notizia, mi pare, giusto Deborah? Abbiamo un'ultima notizia che mi sembra anche abbastanza rilevante da riportare ai nostri ascoltatori. Ieri è una notizia di ieri, è passata un pochino sotto traccia, ma io direi che invece va proprio segnalato come il garante della privacy abbia ordinato a Vodafone, il colosso mondiale delle telecomunicazioni, il pagamento di una sanzione, senti qua Mauro, di 12 milioni e 250 mila euro. Io ho cercato su più siti per capire se fosse una notizia vera, perché l'importo mi sembra veramente rilevante, per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti ai fini, indovina un po'? No, saprei. Di telemarketing. Ah. E quindi insomma questi dati vengono usati, rivenduti, utilizzati per tormentare gli utenti dei propri servizi con offerte commerciali alternative, quindi continui contatti telefonici indesiderati che gli utenti lamentavano, al punto che la vicenda è finita appunto sul tavolo del garante della privacy, che ha ben pensato di sanzionare per questo importo questa grande compagnia. Per cui davvero un tema che nonostante i richiami delle autorità, il famoso registro delle opposizioni e tutto quello che è stato fatto, non sembra essere destinato a ridimensionarsi. Continuano a telefonarci da ogni dove, parlo di Vodafone ma parlo anche di tanti altri soggetti ed interlocutori, e sembra davvero un fenomeno contro il quale non ci si può difendere, nei confronti del quale non ci si può difendere, Mauro, per cui anche questo è un tema assolutamente interessante che vale la pena continuare a richiamare appunto per i nostri ascoltatori. E lo mettiamo in agenda. Abbiamo sportato i reclami? E certo, perché in quelle invece sono chiamate desideratissime. Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Buongiorno, mi aiutate a risolvere l'ennesimo problema. Vero un SRL, ma l'amministratore è l'unico dipendente, l'unico che lavora. Ha diritto a qualcosa con i nuovi ristori? Perché questa persona, anche se effettivamente è un SRL, non può ottenere nulla? Grazie per una risposta. Ma Mauro, sai? No, al volo così, guarda, non mi voglio avventurare, però sicuramente interpelliamo un esperto di valore mondiale e diamo una risposta nelle prossime puntate, perché le varie platee che si sono via via configurate nel decreto Ristori 1 e Ristori 2 abbisognano di molta cautela da parte nostra, cara Deborah. Chiedo scusa all'ascoltatore se non sono così preparato all'impronta. Bene, però siamo preparatissimi sul primo approfondimento di questa mattina che facciamo partire. Salutiamo un gradito ritorno a Due di Denari, quello di Alberto Oliveti, presidente di ADEP, l'Associazione delle Casse di Previdenza Private. Presidente, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, oggi pomeriggio ADEP presenta in anteprima il rapporto sullo stato di salute del patrimonio, appunto, delle proprie casse. È una composizione, quella del portafoglio delle casse private, molto articolata, che pian piano, caro Mauro, si è modificata anche alla luce delle nuove dinamiche sui mercati finanziari. Potremmo dire, presidente Oliveti, sempre meno mattone, sempre più asset finanziari. Che cosa sta succedendo in questo patrimonio che a fine 2019 aveva raggiunto, per quello che riguarda i 96 miliardi di euro. Presidente. Sì, è proprio così, ha raggiunto 96 miliardi la quota del patrimonio, che ripeto sono contributi ottenuti dagli iscritti obbligatoriamente in riferimento a un differimento previdenziale dei loro redditi e che dobbiamo investire in maniera oculata per garantire prestazioni di tipo previdenziale sia pensionistiche che di tipo assistenziale di welfare. Detto questo, è proprio vero quello che ha affermato, stiamo sempre meno investendo in mattoni, come si suol dire, sempre più in attività finanziarie. L'investimento in mattoni, tra l'altro, che rimane ed è permanente, però si sta modificando sempre più nella forma di affidamento a fondi immobiliari e quindi fondi di settore. Presidente Oliveti, sull'anticipazione che possiamo leggere questa mattina sul Sole 24 Ore e anche le sue dichiarazioni rilasciate appunto alla collega Federica Micardi, vediamo che le casse previdenziali si stanno affidando via via a gestioni indirette, cioè questa maggiore quantità di obbligazioni, azioni, insomma investimenti di tipo mobiliare e non più immobiliare, viene affidata a gestori esterni, a gestori terzi. E come è andata in questa fase appunto di grossa volatilità delle borse, scivoloni e poi subitanee riprese che abbiamo visto in questi mesi? No, tutto sommato siamo passati da un anno, dal 2018, che è stato un anno orribile da questo punto di vista, perché hanno perso più del 90% di tutte le proposte date al mercato, a un 2019 di cui stiamo rendicontando i dati, che ha visto una ripresa con dei recuperi importanti che hanno addirittura superato la perdita. Poi è arrivato il 2020, che insomma dall'anno orribile siamo passati a un anno mirabile nel 2019, e dal 2020 inauguriamo gli anni fragili. L'impressione. Nel frattempo noi ci siamo sempre più affidati alla gestione tramite fondi comuni, quindi cosiddetti OICR o FIA, e sempre di meno ci manteniamo, o almeno ci manteniamo in maniera abbastanza costante su una gestione diretta. E in decrescita sono i gestori qualificati. Diciamo che in 7 anni siamo passati dal punto di vista percentuale a una riduzione dell'attività gestita diretta da più del 50% a meno di un terzo, mentre l'attività gestita tramite OICR è passata da un 25% a un 50%. Cioè sono gli organismi stabile percentualmente l'attività tramite gestori qualificati, che oscilla poco meno del 20%, teniamo presente però che la base, il denominatore, è aumentato, perché siamo passati dai 60 miliardi di patrimonio agli attuali 96. Quindi sempre più gestori professionali, sì. Deborah. Prego. Sì. Un'altra... Gestori professionali, professionisti proprio, gli OICR, cioè gli organismi di investimento collettivo. Risparmio, e quindi diciamo in grado, si immagina, di cogliere meglio gli umori dei mercati. È così, no, Presidente Oliveti? Sì, questo è l'obiettivo. certo, la qualificazione, certo, della, allora, capacità di investimento. Un'altra voce importante nel capitale delle casse è la voce relativa all'investimento in obbligazioni, 36,25 miliardi, e la parte da leone racconta il rapporto, di cui noi diamo qualche dato in anteprima, ma che viene presentato appunto oggi pomeriggio, la fanno i titoli di Stato. Lo volevo segnalare, Mauro, questo aspetto, perché rispondiamo in questo modo anche a tutti quegli ascoltatori che si chiedono in genere per quale ragione abbiano così tanto successo le aste dei titoli di Stato, che generano però rendimenti negativi, e anche perché c'è una quota importante di appunto investitori qualificati, come in questo caso le casse previdenziali, che investono anche in queste classi di investimento. Allora, Presidente, ci vuole fare un po' un punto della situazione rispetto a questa vostra partecipazione al debito pubblico italiano? No, è corretto quello che lei sta affermando, nel senso che grosso modo nell'ambito dell'investimento in obbligazionario, che è passato da in sette anni, dal 2013 al 2019, da 22 miliardi a 36 miliardi, ma di questo una quota parte uguale va ai titoli di Stato rispetto appunto a questi fondi mobiliari. E poi sono circa 15 miliardi l'uno e 15 miliardi l'altro, invece 5 miliardi sono investiti in investimenti obbligazionari diretti. Quindi di fatto ci affidiamo ai titoli di Stato, smentiamo l'affermazione che non investiamo nel nostro paese. In realtà più del 50% del nostro patrimonio sta nel paese, per quota parte 38% come investimenti, per quota parte come tutta quella componente legata ai crediti, alle assicurazioni, alla liquidità che sta nel paese. Quindi più del 50% sta nel paese. Circa il 75% sta nello spazio economico europeo, quindi in quello spazio. Non era neanche necessario che lo smentisse, Presidente, perché naturalmente nessuno aveva contestato assolutamente questo vostro rapporto con l'Italia. Mauro, chiediamo anche al Presidente, l'ultimo minuto che ci rimane di tempo, anche questo tema dell'interesse verso gli investimenti sostenibili, che noi commentiamo spesso con i nostri ascoltatori. Ah, certamente, ottima domanda. C'è un'attenzione maggiore da parte vostra ai cosiddetti criteri ESG, cioè ambiente, sociale, sociale, governance dell'azienda, quindi con una selezione mirata in questo senso, Presidente Olivetti? Assolutamente sì. Primo, perché credo che l'ambiente è il nostro spazio vitale, quindi dobbiamo avere un'estrema attenzione al rispetto dell'ambiente, dal quale poi nascono tutte le economie. Secondo, noi siamo delle casse di previdenza, quindi non perseguiamo scopi speculativi, ma dobbiamo perseguire dei criteri di investimento legati alla prudenza, al tentativo di coordinare il rischio che ci assumiamo con il rendimento atteso, ma soprattutto dobbiamo avere una grossa attenzione e quindi salvaguardie e garanzie delle prestazioni nei riguardi degli iscritti futuri. Quindi quale maggiore attenzione al futuro rispetto a quella che è riferita all'ambiente, riferita ai criteri di governance, quindi alla democrazia rappresentativa, e quella all'attenzione sociale, che può diventare, la pandemia purtroppo ce l'insegna, una delle bombe esplosive e reliquate che resteranno dopo la crisi meramente sanitaria. Grazie Presidente Olivetti. Deborah, che dici? Passiamo al tema, rimandiamo naturalmente alla lettura del Sole 24 Ore di oggi, perché oggi sì, ci sono delle anticipazioni appunto raccolte dalla collega Federica Micardi, anche con un'intervista al Presidente Olivetti, che ringraziamo per la sua disponibilità, e noi andiamo invece ad occuparci di zone gialle, rosse, arancioni, chissà, forse un giorno verdi, vedremo. E chi altro poteva assisterci in questa operazione di chiarimento se non l'avvocato Valerio Vallefuoco, il grande specialista ormai di tutti i DPCM del governo Conte, soprattutto il grande specialista di tutti quelli che hanno a che fare con le regole per gli spostamenti in tutta Italia. Peraltro regole sempre in movimento, Mauro, perché i colori delle regioni continuano a cambiare, e quindi tra chi peggiora e chi migliora qua spostarsi è veramente diventato un puzzle. Ed è così. Allora, bentornato avvocato Vallefuoco. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, parliamo di regole nazionali, naturalmente, perché poi bisognerebbe anche tener conto di tutte le disposizioni locali. Avvocato Vallefuoco, guardi, qui abbiamo già delle domande, prima ancora di aver annunciato il tema, già avendolo segnalato ieri, ci hanno scritto alcuni. Un tema che arriva sempre, e io approfitto di questo minuto per chiarirlo, visitare, in caso di coniugi separati, di ex coniugi, visitare i figli, recarsi a prendere i figli per il periodo, appunto, che il giudice ha assegnato all'uno o all'altro. È un motivo legittimo di spostamento anche nelle zone cosiddette rosse? Allora, innanzitutto do un'indicazione che secondo me va valutata continuamente. C'è un sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sostanzialmente dà la possibilità di visitare regione per regione quelle che sono le restrizioni. C'è una mappa aggiornata per cui in realtà viene chiamato FAC, ma sono le famose domande frequenti sulle misure adottate sul governo per evitare facili accostamenti diversi. E quindi, per esempio, se io fossi la persona che, per esempio, faccio l'esempio in Lombardia, dovrei andare sulla mia regione. Quindi la regione mi viene considerata come area rossa, clicco sull'area rossa, vedo sulla parte spostamenti ed effettivamente ci sono delle domande che già la Presidenza del Consiglio dei Ministri risponde, per cui effettivamente se sono separato e posso andare a trovare i miei figli minorenni è una delle domande che sono state fatte e che ha risposto la Presidenza del Consiglio. La risposta è sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque verso l'altro affidatario oppure per condurli presso di sé sono consentiti anche tra comuni di aree differenti. Ovviamente, dice la Presidenza del Consiglio, bisognerà scegliere il tragitto più breve e il rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, quindi persone in quarantena, positive, immunodepresse e poi ovviamente seguendo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio o secondo quanto concordato fra i genitori, perché questo rientra nel concetto di necessità. Allora, benissimo, ora mettiamo anche sui social, sul Twitter, il sito con l'indirizzo appunto della Presidenza del Consiglio con le domande frequenti e le risposte ovviamente. Nel frattempo, cara Debora, cortesemente dovresti aggiornarci su le borse. There is no alternative. Due di denari. La storia che avete raccontato del tizio che va dall'amante è pazzesca, cioè la cosa è incredibile, davvero incredibile, che una persona in tutta Italia che l'ha fatto e l'hanno beccata, cioè proprio quella lì, l'unico in tutta Italia che l'ha fatto o l'han beccato, cavolo. Beh, diciamo che l'hanno beccato perché forse la sua amante non voleva più essere tale e quindi ha anche sfruttato un po' la situazione, verrebbe da dire. Ma queste sono magari delle malizie che mi avevano suggerito delle donne quando ieri si commentava la notizia qui in redazione e anche naturalmente con Debora. Non so, Debora, se condividi o meno questa possibile lettura dell'evento. Non è l'unico che hanno beccato, perché semplicemente questa signora, sapendo che lui era positivo al Covid, non voleva farlo entrare per quello. Non so se poi tu dici non voleva scaricarlo, come sostenevo, come mi ha detto qualche collega, invece qualche collega donna. Diciamo che questo è un virus che genera anche molta paura nelle modalità in cui si manifesta, e quindi magari uno, se non si contagia, insomma, è più contento, ritengo. Ma ritorniamo un po' sui nostri temi. Chissà, magari abitavano vicini, quindi lui si è, come dire, avventurato anche nel tentativo di andare a trovare l'amante, perché non doveva fare un passaggio da una zona rossa ad un arancione o una gialla. Erano magari contigui geograficamente parlando e ci ha provato. E invece, Mauro, guarda, abbiamo tante domande, vedremo se anche questo sarà un caso, ma abbiamo tante domande, ti voglio dire, sul tema dei rogiti. se ricordi che sì, già si era prospettato questo tema nel corso del primo lockdown, perché magari uno ha già fissato, sì, una data, ha delle scadenze indicate nei contratti preliminari, insomma, i documenti, e quindi questo genera sempre parecchie curiosità. Tutte le domande non possiamo riassumerle in una, però c'è un caso che ci sembrava particolarmente interessante anche perché proviene da Codogno, che è diventato un po' un comune anche simbolicamente importante. Massimo, in linea, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Lei ha una domanda proprio su una possibilità o meno di effettuare un rogito e noi la vogliamo sottoporre all'avvocato Vallefuoco. Può riassumerci il suo caso? Allora, io in data 1 ottobre ho fatto un preliminare di compravendita per l'acquisto di 3 lotti di terreno a Berceto in provincia di Parma. Sì. E, lei invece è a Codogno, quindi è in Lombardia, insomma, giusto Lombardia, per zona rossa. Esatto, prego. Berceto attualmente è in zona arancione. E da quello che erano gli accordi, entro la fine dell'anno avrei dovuto fare l'atto notarile definitivo. Il mio problema è che è possibile farlo, posso spostarmi o certo, eventualmente devo chiedere di rinviarlo a una data successiva? Ma allora, mi scusi Massimo, posso chiedere io se lei ha chiesto al notaio? Perché mi piacerebbe anche capire i notai come si stanno comportando in questo periodo, salvo che potremmo interpellarli prossimamente direttamente. Lei Massimo ha chiesto? No, allora io le dico che quando ho fatto il preliminare di compravendita ero a Berceto, in quel momento non c'era nessun divieto e abbiamo fatto l'atto di preliminare di compravendita con il notaio online tramite video collegamento. Infatti volevo arrivare a lì, perché adesso diciamo molte procedure si sono digitalizzate, Mauro, e probabilmente finiremo anche con lo stipulare definitivamente totalmente gli atti di compravendita con questa modalità. Mauro, scusami, mi sono intrufolata. No, giustamente, perché cerchiamo anche di tenere i vari casi, insomma, possibili e i vari comportamenti. Avvocato Vallefuoco, allora, venendo proprio al cuore della domanda, ci si può spostare di comune, di regione, di zona, da una zona all'un'altra per un rogito? Allora, innanzitutto bisogna fare sempre riferimento a quelle che sono le disposizioni contenute nell'ultimo DPCM. L'ultimo DPCM fa un riferimento molto chiaro in cui si dice è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Questi sono i 3 casi. Allora, nel caso del rogito, evidentemente bisognerebbe capire, scusatemi se poi si entra, no, e si fa ancora un pochino più l'avvocato più che il notaio, nella necessità, se si rientra o meno nella necessità del soggetto, perché ad esempio se io ho disdetto casa perché ho praticamente sto lasciando casa e devo comprare una prima casa e quindi devo prendere una prima casa, evidentemente in quel caso a mio avviso una situazione di necessità ci può essere. Nel caso invece di un semplice stipula di un rogito, a mio avviso ci sono le norme generali per cui se c'è un divieto di spostamento fatto attraverso un DPCM con una regolamentazione addirittura nazionale, se non locale, poi dipende a seconda delle regioni e tutto, evidentemente la cosiddetta causa di forza maggiore può essere invocata, per cui di fatto uno può chiedere sicuramente un rinvio motivato dal fatto che non ci si può spostare, a meno che, ripeto, siamo in una situazione di necessità, quindi io non ho casa, devo entrare in una casa perché devo lasciare una casa. Ecco, questo è l'elemento. E controparte neanche, a mio avviso, si può rifiutare di concedere una proroga, perché sì, di fatto non è una scusa per non pagare, ma è evidentemente solo una causa di forza maggiore nota, perché ci sono dei provvedimenti e ci sono dei provvedimenti cosiddetti tra virgolette di sanità pubblica. Io volevo solamente, quando tu facevi invece riferimento alla storia dell'eventuale contagiato, ricordo solamente per essere molto chiari che mentre i divieti per gli spostamenti sono sanzionati dal punto di vista amministrativo, per chi invece sa di essere, diciamo, contagiato, no, invece c'è una sanzione penale. Per cui questo bisogna ricordarselo, perché infatti io, leggendo addirittura l'ultimo richiamo che ha fatto il Ministero dell'Interno per gli ultimi controlli di questa settimana, dice che ci sono stati 158 persone denunciate per non aver rispettato le misure di isolamento previste dalla quarantena. Quindi c'è era come il signore della bicicletta di Monza, Mauro, ti ricordi? Sì, sì. La settimana scorsa avevamo dato anche la storia di questo signore che bellamente andava in bici. Se tu sai di esserlo, di fatto devi sapere, bisogna sapere che non è una semplice sanzione amministrativa, ma è una sanzione penale, dove ci sono delle sanzioni, insomma, anche gravi, perché è considerato contagio colposo, se non addirittura se qualcuno poi prende da te ci rimane, perché purtroppo abbiamo visto che questa malattia non lascia delle sorprese enormi anche per le persone giovani, a quel punto si rischia anche l'ergastolo. Quindi, insomma, bisogna essere molto molto chiari: chi è contagiato non può uscire, ci sono sanzioni penali. L'abbiamo chiarito, direi, in modo esemplare. Adesso ascoltiamo però il traffico. Due di denari. Allora Mauro, eccoci ritrovati in diretta, stiamo provando a chiarire le possibilità di spostamento sul territorio nazionale a seconda del luogo in cui si abita e se questo ricade in zona rossa, arancione o gialla. Ci sta aiutando l'avvocato Valerio Vallefuoco. C'è una domanda di un'ascoltatrice che tra gli sms chiedeva: io sono da parenti in Veneto ma la mia residenza anagrafica è a Trento, posso rientrare? Io credo che quella sia la condizione fondamentale per poter rientrare, a prescindere dal colore della zona nella quale ci si trova. Ma un altro tema che volevo sottoporre all'avvocato Vallefuoco è quello dell'autocertificazione, avvocato, perché abbiamo detto che chiaramente gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze professionali, di salute e familiari, ma tutto naturalmente tutto ciò va documentato nel famoso modulo di autocertificazione. Quindi il punto è capire anche quanto si possono spingere poi i controlli di chi eventualmente ci ferma per chiederci in ragione di uno spostamento che stiamo sostenendo, perché se io sto in zona rossa, voglio andare in zona gialla e metto nell'autocertificazione che ci vado perché mi sta aspettando un parente in difficoltà, lì le forze dell'ordine immagino devono fidarsi. Che cosa fanno? Telefonano al diretto interessato? Cosa può succedere? Allora, il discorso dell'autocertificazione evidentemente è connesso al fatto che il soggetto che autocertifica la situazione è un soggetto che è consapevole che in caso di dichiarazione mendace è responsabile di un delitto, di un reato. Per cui di fatto già di per sé questo dovrebbe, diciamo, evitare questo tipo di comportamento. È evidente che nel momento in cui le forze dell'ordine mi fermano, se io ce l'ho a disposizione e la produco, se no loro ce l'hanno, questo è una cosa che ormai è assodata, chiederanno le reali motivazioni. Chiaramente dire che un parente, diciamo, è necessità, insomma, potrebbe comunque far sì che la giustificazione possa essere considerata insufficiente e quindi possa scattare, diciamo, la contestazione di una sanzione amministrativa, e di conseguenza io consiglio sempre di fare degli spostamenti quando veramente ci sono delle vere e proprie necessità e poi sono documentabili. La sanzione è una sanzione amministrativa che va da 400 euro e può essere ridotta a 280 se si paga entro entro 5 giorni, quindi insomma non è proprio pochissimo, non è trascurabile, non è trascurabile. Allora io ho una domanda che ci è arrivata proprio appena prima di andare in onda e vorrei porla all'avvocato Vallefuoco perché mette insieme un altro tema molto popolare in questi mesi. Una signora, Elena nella fattispecie, ci dice io dovrei andare nella mia seconda casa, mi trovo in una regione zona rossa, per una visita del perito per i lavori del 110%, e chiede naturalmente se può essere ritenuto un motivo sufficiente o no. Allora, posto che il 110% è molto popolare, sappiamo per averne parlato molte volte qui a Due di Denari che ci sono diversi passaggi preliminari, tra cui appunto la perizia, però chiediamo all'avvocato Vallefuoco, mi sembra un motivo debole, ma non voglio fare l'esperto a mia volta. Avvocato Vallefuoco, perché non scade, visto che c'è l'opportunità di chiederlo fino a tutto l'anno prossimo, Mauro, c'è anche questa... C'è anche questa possibilità. Cosa dice l'avvocato Vallefuoco? Allora, la risposta un po' è come l'altra, nel senso il concetto di necessità, no? Che va sempre analizzato questo concetto di necessità e secondo me unito anche al concetto di indifferibilità. Per cui sicuramente il fatto di andare in una seconda casa, un terreno, perché queste erano anche le richieste che c'erano, se non vi ricordate, durante il primo lockdown, in realtà sono giustificate se non possono essere prorogate. Faccio l'esempio, io ho una seconda casa e devo andare in questa seconda casa perché devo fare delle manutenzioni urgenti e straordinarie all'impianto di riscaldamento elettrico, eccetera, per cui in realtà c'è un problema se questo non viene fatto subito. O ho un terreno, questo terreno ha bisogno di irrigazione, o gli animali hanno bisogno di mangiare, ecco, in questo caso... Diciamo l'indifferibilità fa parte, a mio avviso, anche del concetto, deve essere unita al concetto di necessità. Il fatto che io oggi debba andare a parlare col perito per forza e non siccome la dichiarazione insomma si può diciamo aspettare un po', a mio avviso mi sembra una ragione, rende un argomento un po' debole, ecco, sì. Insomma non è poi così tanto necessaria. Avvocato, se invece sono il perito, invece no, il perito può andare perché il perito va per lavoro, ecco. Questo esatto, fa perché parte questo... delle tre cose, no? Lavoro, sanità e necessità. Questi sono gli elementi da evidenziare. E infatti, a proposito di lavoro, ci telefono, non facciamo in tempo a sentirlo, ma la domanda è interessante. Sono disoccupato, devo fare un colloquio di lavoro fuori regione. È un motivo di lavoro, però. Assolutamente sì. Sì. Mi faccio fare una richiesta scritta e nella mia autocertificazione, tra l'altro secondo me qui ci sono due casi, necessità e motivi professionali, perché se uno è disoccupato c'è necessità di lavorare, quindi assolutamente può essere giustificato. Deve farsi produrre qualcosa dall'azienda, sì, insomma dalla mail, persona presso la quale si reca. Di contatto per il colloquio, certo, assolutamente sì. In tanti, Deborah, ci chiedono per le cerimonie, i battesimi, i matrimoni, le cresime, financo i funerali, ecco. Ma non mi paiono motivi sufficienti, poi a seconda delle limitazioni dove uno sta in zona gialla, arancione o rossa, insomma, ma non mi sembrano motivi sufficienti per cui non vedo né il lavoro né la necessità e neanche l'urgenza. Non so, avvocato, ci conforti? Allora, qui in realtà non ci sono, diciamo, delle disposizioni dettagliate. Delle disposizioni dettagliate, però evidentemente siccome c'è il divieto adesso appunto di tavoli nei ristoranti più di 4 persone, io ci vado, diciamo, come evidentemente analogia, è evidente che o prendo un intero ristorante e metto distanziati tutti a 4 persone, ma insomma mi sembra, diciamo, evidentemente questo non è il periodo forse di cerimonia, ecco, questo è un tema debole. Infatti, anche perché i locali sono chiusi, quindi si fa solo l'asporto e quindi non è che ci sono dei grandi festeggiamenti, a meno che uno non si chieda se può andare ad assistere alla cerimonia, a patto che si faccia in chiesa o in comune. In 3 secondi, questo signore Daniele Mauro invece ci chiedeva, deve vendere la macchina, il problema sta che lui si trova in zona rossa, l'acquirente in zona arancione, chiaramente la pratica si può anche definire in agenzia in via telematica, ma poi il problema diventa lo scambio dell'auto. Aspettiamo che diventino di un colore uniforme le regioni, avvocato Vallefuoco, in 30 secondi. Beh, nel momento in cui devo consegnare la macchina, effettivamente c'è una necessità, che è quella di consegnare la macchina. Diciamo che da questo punto di vista. Trovatevi sul confine, il viaggio sarebbe giustificato, è comunque di più o meno difendibile. È sicuramente meno difendibile del 110% certo. Che si può fare, diciamo, esatto. Sì, aggiungo che il povero Daniele sta chiamando la questura, ma non gli sanno dare una risposta, pure le forze dell'ordine, poveretti. Va non bene. Sanno più dove sbattere la testa. Avvocato Vallefuoco, anche se è in zona gialla, non lasci il paese, perché avremo ancora bisogno di lei. Assolutamente sì, sono qui fermo al mio posto e mi aggiorno su tutte le sanzioni che vengono da questa nuova normativa. Grazie. Grazie. Noi torniamo domani. A domani.